cuore e denari. I consigli della settimana. Sembra solo ieri quando mi inseguivi con le tue domande, coi tuoi sogni nuovi, come cambiano i figli. Oggi non so mai cosa fai là fuori e ci vivo male con i miei pensieri. Piano piano te ne vai e non so raggiungerti. E siamo arrivati al nostro consueto spazio della domenica, quello in cui cuore e denari entra in famiglia insieme al nostro psicoterapeuta di fiducia, nonché grande amico Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano. Ciao Alberto! Ciao a tutte e due, buona domenica a tutti. Buona domenica Alberto e grazie. Allora, questa settimana i nostri figli sono stati un bel po' sotto i riflettori e come sempre più spesso accade, anche in questo caso le nuove tecnologie e i nuovi media hanno avuto un ruolo preponderante nel parlare di adolescenti e di ciò che gli adolescenti fanno nella vita reale ma anche online. Le notizie che hanno più colpito Deborah e me sono quelle relative alle ragazze di Bollate, aggredita da una coetanea in modo davvero violento, poi ripresa con un cellulare, poi tutto il filmato postato online a disposizione di tutti. Questa notizia fa coppia peraltro con il suicidio di una 14enne di Padova, vittima di cyberbullismo, dopo aver ricevuto un'infinità di messaggi violenti e carichi di odio su una piattaforma in cui chiedeva invece aiuto per una sua delusione sentimentale. Insomma, Alberto, c'è molto da raccontare, da parlare, da commentare. Direi, da che cosa vuoi iniziare? Ma direi intanto il primo caso, quello della ragazza di Bollate, ha lasciato veramente un po' senza parole tutto il mondo degli adulti. Il video è stato visto sia online perché era disponibile su un sacco di piattaforme, di diversi media, è stato anche molto commentato in programmi televisivi. Per noi genitori credo che da una parte l'aspetto sconvolgente fosse vedere due ragazze picchiarsi in quel modo, cioè in qualche modo una novità era certamente la violenza fisica tra ragazze, che è un dato abbastanza inusuale, inedito. Le ragazze di solito quando litigano, quando entrano in un conflitto, sono molto potenti con le parole, ma è molto meno evidente, molto meno probabile vederle dentro ad uno scontro fisico. Credo che un altro aspetto che secondo me per noi adulti era sconvolgente era quello che succedeva intorno a loro, cioè mentre si davano così tante botte, intorno a loro c'erano ragazzi che ridevano come essere davanti a un film, a uno spettacolo, intanto qualcuno riprendeva con un cellulare, come se l'unica cosa attiva che si potesse fare in quel momento fosse stare lì a video riprendere, con l'idea poi di postare tutto su un profilo Facebook come è stato fatto. E quindi la domanda di molti di noi diventa, di molti di noi genitori, è davvero un po' che cosa hanno in testa questi ragazzi, cioè di fronte a uno scontro così violento per quale motivo nessuno per esempio sa intervenire, ricostruire un conflitto, proprio portarlo in una direzione più pacifica, e per quale motivo i ragazzi sembrano così anestetizzati e indifferenti di fronte a un'esplosione di violenza di questo tipo. Direi anche molti adulti però, Alberto, vero? Sì, questo ecco, in generale. Perché gli adulti si scandalizzano, ma giustamente, e cerchiamo di oggi proprio di dare anche un po' di idee, di spunti di riflessione, ci confrontiamo, ma ci sono anche molti adulti che non solo vanno a vedere queste cose online, ma di fronte a queste scene rimangono un po' con le mani in mano. Cioè si è perso non solo davanti a queste scene, ma anche di fronte a delle situazioni molto più, se vuoi, gestibili. I ragazzi che litigano sul tram, si è perso quella genitorialità sociale che invece quando noi eravamo ragazzi c'era e ci preservava. Sì, io sono completamente d'accordo con questa affermazione. Credo davvero che i ragazzi in questo modo, in qualche modo, dimostrano di non avere davvero avuto una sorta di insegnamento, e in questo caso lo direi quasi di insegnamento etico e morale, ma allo stesso tempo di non aver avuto insegnanti su questa parte della vita, cioè persone con un ruolo adulto, con una funzione autorevole, che hanno permesso a chi sta crescendo di mettere dentro una sorta di genitore interiore che ti permette poi di funzionare con regole appropriate, adeguate al mondo adulto, non perché hai vicino un adulto che controlla, ma perché tu sai che quelle regole servono a tutti e gli adulti te le mettono dentro perché garantiscono la sopravvivenza del gruppo e in realtà aiutano anche a vivere molto meglio. Ci dai un assist perfetto, Alberto, per la prossima domanda, perché prima ricordavi di come questa storia di queste due ragazze che si picchiavano davanti alla scuola di Bollate fosse stata abbastanza singolare, proprio perché racconta la storia di due donne, sì, anche se molto giovani appunto, che si picchiano, anche se io, avendo visto il filmato, peraltro penso di essere stata una delle prime, perché lo ha anche girato su Facebook una collega che lavora con noi, Nicoletta, questo te lo racconto in diretta, che abita di vicino e conosceva anche quel gruppo, per cui si è un po' attivata anche per fare un po' di movimento e di far circolare appunto questa storia per attivare anche la scuola. Ecco, dicevo, in realtà mi sono chiesta, io vedendolo, che cosa avrà pensato, siccome ce n'era una particolarmente accanita che picchiava, la mamma di questa ragazza di fronte a questo comportamento della figlia, no? E si sarà chiesta, potevo fare qualcosa prima per evitare che scattasse questo meccanismo in testa di questa ragazza? Si può fare una sorta di prevenzione per evitare che episodi pazzeschi come questo accadano, Alberto? Io credo che sia fondamentale, cioè intanto tutte le ricerche affermano che quando un adulto dà aspettative chiare ai propri figli su come io mi aspetto che tu ti comporti quando vai in giro per il mondo e io non sono al tuo fianco, lo fa in modo e quando un adulto lo fa in modo autorevole e soprattutto coerente poi con l'esempio e la testimonianza che dà nella vita di tutti i giorni, ecco, quel figlio si muove nella vita facendo molta attenzione agli insegnamenti che ha ricevuto a casa, per cui per esempio parlare proprio di cosa significa prevenire la violenza nei conflitti tra le persone, avere tolleranza zero in casa e fuori casa rispetto alla violenza fisica tra persone, è una cosa che va discussa tanto in famiglia. Credo anche che ai genitori all'ascolto io direi che un caso di questo tipo non va raccontato ai figli in modo scandalizzato, ma va proprio un po' invece discusso coi figli chiedendo: ma se tu fossi stato lì in quel momento, quali sono le scelte che hai a disposizione, quali sono le cose che potresti fare tu se appartieni al pubblico, se appartieni invece alla coppia che sta combattendo, che cosa significa anche se hai subito per esempio un tradimento in amore o un dispetto da parte di una tua compagna, che cosa significa ristabilire la giustizia, significa darsi botte da orbi o significa invece costruire un confronto che va in tutt'altra direzione. Alberto, non possiamo dimenticare anche di commentare il caso della ragazzina di Padova, che si è suicidata perché vittima di cyberbullismo. Sì, lì la storia di questa ragazza è veramente una storia, leggendo un po' i giornali, molto triste, cioè si capiva che lei aveva una vulnerabilità personale molto molto, molto forte ed è entrata in questo social Ask FM dove i ragazzi fanno domande e spesso chiedono aiuto oppure chiedono un confronto, chiedono una discussione. Lei era oggettivamente travolta dalla fine della sua storia d'amore e in realtà invece che ricevere solidarietà online ha ricevuto una quantità di aggressioni, sì, e di oggettivamente brutti commenti e brutte parole che in qualche modo l'hanno probabilmente scompensata ancora di più. È chiaro che quello secondo me non è il fattore di causa, cioè esiste una vulnerabilità precedente, ma di nuovo come adulto mi domando per quale ragione i ragazzi hanno bisogno di mettere così tanta aggressività, così tanta violenza verbale e fisica approfittando dell'online. E secondo me una risposta è che l'online abbatte proprio la consapevolezza emotiva, cioè tu puoi fare fondamentalmente tutto perché lì dentro è come stare dentro a un videogioco e non stare dentro a una realtà dove interagisci con persone che non sono avatar, ma sono persone fisiche che hanno un cuore e una mente reale. Apri il libro, tira il foglio, un bambino che ti guarda, apri la porta e là, poi la strada inizierà. Apri il libro, tira il foglio, un bambino su un cavallo, apri la porta e là. Arriviamo allora al solito ai consigli di lettura. Alberto, che cosa ci consigli per questa settimana? Come al solito hai un consiglio per i figli, ma anche per i genitori, abbiamo appena un minuto di tempo. Allora, per i figli il libro E se nessuno mi becca, breve trattato di etica per ragazzi di Bruce Weinstein, è stato appena pubblicato dal Castoro ed è un libro originalissimo di educazione civica e sociale, proprio educazione prosociale, tra l'altro con molti materiali online scaricabili dalla casa editrice, e insegna i ragazzi ad avere un sacco di consapevolezza rispetto a quali conseguenze le loro azioni potrebbero avere non solo nel mondo reale ma anche nel mondo dell'online. Il secondo libro, rapidamente? Genitori in pratica, manuale di primo soccorso psicologico per aiutare i propri figli nei problemi quotidiani, di Roberta Mariotti e Laura Pettenò, Erickson Edizioni, un libro che dà ottime fatti. Trasforma il genitore in un coach per il proprio figlio. Magnifico. E se non avete avuto tempo di appuntare i titoli dei libri, vi rimandiamo naturalmente alla pagina di Cuore Denari, dove potrete riascoltare anche l'intervista di Alberto Pellai, che ringraziamo e salutiamo per essere stato con noi. Grazie. Buona domenica. A voi buona domenica.